Questa tira accetta il mio amor, la mia fede. Un poco aspetta, sappi ch'io sono. Il so, tu sola puoi consolar l'alma mia. Sì, lo farò se lo vuoi. Altro non provo. Ma sappi che io son quella, oddio che... Argene, che sorte! La bella, oddio... Procura. Sono in stretti discorsi. Attendi, io vo servirti come appunto il mio affetto verso di che ti richiede. Son più dubbia che mai della sua fede. Tronco la tua presenza all'insidia di colui. Termi si strugge, temerario e audace, gli asino e brigi tuoi. Quanto è sagace! Ho il cuor nel sen tremante. Oh, Germana fedele, ma tu il sembiante osi in alto alzar. Barbaro, benigno, macchinator di inganni, fabbro di tradimenti. E che ne dici? Spiritosa. Senti. Dei non lasciarmi in preda. Parro la sabbia. Rinnova i preghi. I preghi stessi? Sì. Così farò, già che tu vuoi così. E la nostra è bell'arte. Impone che io ti sgridi. Onde quinci tu parta. Oh, scellerato, vanne tu tra le selve. Al mio aspetto t'impona. T'ascondi entro gli abissi. Nulla giovano i preghi. Io già te il dissi. Ora mi insegna risposta favorevole e cortese. Digli che il Dio ricnido donando il sento accese. È buona la risposta? Ottima al certo. Non anco il Dio ricnido il sento accese. Folle desiro. Voglio far questa volta a modo mio. La man d'aria mi stringe. Come beato. Scioglierò queste nozze a dispetto degli uomini del fato. Quanto argene ti devo.